Bene, prima trasmissione dell'anno, primo venerdì dell'anno e soprattutto primo giorno dell'anno. Quale anno? Ma il 2121! Ah no, è il 2021. Siete sintonizzati su Radio Maurello. Ah no, scusate, è su Radio Forte, la web radio. In sottofondo la nostra sigla, come di consueto con Medi Water. E allora, buon anno a tutti e a tutte, buon 2021. E quindi stai ascoltando l'ennesima striscia dedicata ai Diavoli Blues. Indovina un po', stai ascoltando Radio Forte. I just wanna tell you, I said it, yo. Ma iniziamo in grande stile e quando unisci la voce di Betard e la chitarra di Joe Bonamassa, lo stile è sicuramente grande. I believe. Con la loro versione di Something Got Hold on Me, Betard e Joe Bonamassa. I say, e siamo partiti a cannone con Betart e Bonamassa e continuiamo a cannone con i Blues Traveler di John Popper dall'album 4 Crashburn Blues Traveler. Ed erano i Blues Traveler e adesso il batterista e cantante Bobby Harrison, che stile, un po' di funky blues. Dall'album del 1976 Funkist Whiskey Head, Bobby Harrison. Whiskey bottles my medicine. Thank you. This is what he said. Oh, about the whiskey went through me. When I'm down on the ground. Yeah, he said, sorry, son, but you got whiskey power blues. That's what you suffer from. That's what the doctor said to me. There ain't nothing else any good for you. I'm afraid, son, you're down to whiskey hell. Woo! Get on! Mentre ascoltiamo Radio Forte, la web radio, ci auguriamo un buon 2021 e mettiamo il piede nell'acceleratore con i Cactus, con il brano Patchman Farm del 1970, Cactus. Stai ascoltando Radio Forte, la web radio. Cactus! E ora passiamo a uno dei più grandi chitarristi della storia del Chicago Blues. Ha influenzato artisti come Keith Richards, Eric Clapton, Jimmy Page e Jimi Hendrix. Lui è Hubert Samlin. Ci ascoltiamo dall'album I Know You, Begging You Baby, How Many More Here, Hubert Samlin. He's come back home. I'm going to the staff, beg for my car. I'm going to the staff, beg for my car. Where I go, amore non si scorda mai. Janis Joplin. Ask with us, you've been to this world. Janis Joplin. Indovina un po', stai ascoltando Radio Forte. Janis Joplin. Morire a 27 anni per overdose è uno schifo, ma sono bastati questi 27 anni per diventare una delle più grandi voci della storia. E come se niente fosse, passiamo a Magic Slim, dall'album Grave Road, Bad Luck is Falling. Magic Slim. Thank you. for some dinner. She looked at me like a fool. She said, I'm playing checkers and I believe it's your time to move. I said, Lord, what can a poor boy do? Man, you ain't got no money and your woman turn her back on you. E siamo sempre su Radio Forte e siamo più o meno alla mezz'ora e siamo quindi a metà trasmissione. E colgo l'occasione per farvi ascoltare un messaggio di auguri mandato proprio in questo momento, niente poco di meno che da Eclettismi Spaziali Subtropicali. Yeah! E allora un augurio spaziale per questo anno 21 da Eclettismi Spaziali Subtropicali. Contraccambiamo gli auguri di buon anno a Eclettismi e passiamo a un'altra regina del blues, Coco Taylor, I Am Woman. Coco Taylor. I'm a woman. I'm a love maker. siamo sempre su Radio Forte, questa è la striscia del Treccia dedicata ai Diavoli Blues. Ma passiamo come un fulmine a ciel sereno dalla graffiante voce di Coco Taylor alla Mike Onesco Blues Band, Big Fat Mama, Mike Onesco. Che energia, Mike Onesco. E adesso andiamo in autostrada con la Paul Butterfield Blues Band, Highway 28. Paul Butterfield. Hitting down Highway 28, slow me down, don't make me late. I got a gig in Woodstock, people playing off of my shoes and socks now. People come from miles around to gather up in this little old town. Come on down, don't be late. Gonna have some fun today now. Hitting down Highway 28, slow me down, don't make me late. I got a gig in Woodstock, people playing off of my shoes and socks now. Billy playing the bass, Topher playing the drum, Amos playing the guitar now. passiamo dallo stile inconfondibile di Paul Butterfield alla calda chitarra di Robert Cray, dall'album That's What I Heard Hot, Robert Cray. Ain't no time for reminiscing, not me, sir, thanks a lot. All the hugging and the kissing, that I really never stop. You think you got me pinned, cause you see the snow on top. But you can ask my baby, you don't know diddly squat. I'm hot. You can ask my baby, ask my baby. Passiamo un po' il ritmo e passiamo da Robert Cray a Howlin' Wolf, dall'album Blue Eyed Blues, One Dime Doodle, Howlin' Wolf. Tell all automatic slim, tell all rave told Jim, tell all butch and I don't have it, tell all fast talking fanny, a wig on, pitchy ball, down at the Union Hall, all wrong, been drunk till midnight, won't fuss and fight till daylight, wig on, pitcher, washboat sound. That eerie body go jam. Tell Shaky and Bob's Car Joe we've got sawdust on the floor. Tell Piggy and Caroline die. We gon' have a heck of a time. The fish said, feel the air. The beast snuff juice everywhere. We gon' pitch up way, way doodle all night long. All night long. All night long. We gon' pitch up way, way doodle all night long. Let me howl to you, baby. Bene, bene, bene. E sei sempre su Radio Forte, la web radio del CSOA Forte Prenestino. Lasciando Holy Wolf, ci ascoltiamo George Thorogood and the Destroyers. I've been all around the world, don't nothing bother me. Dall'album I'm Wanted. I've been all around the world, don't nothing bother me. Bottom of the Sea, George Thorogood. You know, I've seen everything, baby. Everything but the bottom of the sea. Lots of pretty women. You know they can be mighty sweet. I'm so glad no woman bothered me. You know, I've seen everything, baby. Everything but the bottom of the sea. My daddy lock up. Don't you wait until 3:30. Don't bother me. Going into my daddy lock up. Don't you wait until 3:30. You know I've seen everything, baby. Everything but the bottom of the sea. Mighty sweet. I'm so glad no woman bothered me. You know, I've seen everything, baby. Everything but the bottom of the sea. Buon 2021 a tutti, ce lo auguriamo con tutta la forza. E da George Thorogood passiamo a Luther Allison, dall'album Luther's Blue, il brano dal titolo arabo San Jose. Luther Allison. Mazza che schitarata, Luther Allison. E siamo giunti alla fine di questa prima trasmissione dell'anno 2021. Odissea nello spazio, occupato e autogestito, CSA Forte Prenestino. And I'm not a fear. Vi saluto con i ZZ Top dall'album XXX Fearless Boogie, Boogie senza paura. ZZ Top. Porti serenità, che sia un anno sereno, un anno felice, un anno sano, un santo anno nuovo. E allora augurismi spazialissimi per quest'anno 2021, spaziali augurioni, ciao, spaziali glettismi, spaziali sudtropicati lì. Ciao G, auguri G, ciao. Allora un grande augurio, è che l'anno nuovo sia un anno sereno, un anno nuovo, un anno un uovo.